Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben trovati a Cuore Denari, anche questa mattina al timone da sola. Salutiamo Nicoletta che torna domani regolarmente in conduzione in accoppiata con la sottoscritta. Oggi riapriamo con la notizia con la quale ci siamo salutati venerdì. Il Regno Unito che ha scelto l'uscita dall'Unione Europea, una scelta epocale perché nessun paese aveva mai pensato ad un'iniziativa del genere, che come sapete bene non è che sia stata accolta proprio positivamente dai mercati. Abbiamo avuto il venerdì nero post-Brexit, venerdì scorso, una seduta in cui sono stati, so che anche questa espressione non piace a molti operatori dei mercati finanziari, anche a molti ascoltatori, ma questo è quanto è accaduto. Sono stati bruciati miliardi di capitalizzazione venerdì scorso, oggi qualcuno sperava ad un recupero, invece dopo il primo modestissimo tentativo nei primi minuti di contrattazione da parte di qualche piazza, peraltro neanche tutte, adesso c'è un quadro di nuovo in rosso per tutti i listini continentali. Vi faccio già una fotografia della situazione con Parigi che sta perdendo l'1,25%, Francoforte perde l'1,28%, Londra perde un punto, anche Madrid adesso è in indebolimento ulteriore rispetto all'apertura che in realtà è stata la migliore d'Europa, cercava di guadagnare oltre 3 punti. Madrid adesso mantiene un rialzo di circa 0,5 punto percentuale, là si sta cercando anche di interpretare un po' il risultato elettorale, e Milano -1,62%. Su Milano dobbiamo segnalare ancora una volta un calo pesantissimo dei titoli bancari. Intesa San Paolo -7,5 punti, Monte dei Paschi -7, Unicredit -6,50, Ubibanca che oggi presenta il suo piano industriale perde 6 punti, la Popolare di Milano +5,5 punti con il Banco Popolare. Qua dovrebbe essere formalizzato questo matrimonio a breve. Il Banco Popolare ha chiuso il suo aumento di capitale con successo, l'operazione da 1 miliardo proprio finalizzata, l'integrazione con la Pop Milano, ma chissà se questa nuova condizione, anche questi ribassi di capitalizzazione, può modificare anche le condizioni di questo accordo. Mediobanca -5,5 punti, Azimut -5, andiamo un po' a vedere quelli positivi tanto per dare qualche buona notizia agli ascoltatori. Tutto il mercato considerato difensivo oggi va bene, sono tutti in crescita i titoli energetici e petroliferi. Eni in rialzo di 1,5 punti, Snam +1,29, Enel +1,28, Terna +1,28, bene anche Recordati che guadagna lo 0,90%. L'euro è a 1,1046 sul dollaro, quindi continua a scendere, e anche la sterlina stamattina continua ad essere in una condizione di grande agitazione nei confronti delle altre divise internazionali. Il dollaro sulla sterlina è a 1,34. Allora, questo è un po' il quadro della situazione. Nelle analisi che abbiamo fatto nella puntata straordinaria di Cuore e Denari venerdì scorso abbiamo cercato di capire cosa potrà succedere su certi fronti dopo il referendum britannico. Qualcuno dice che le banche se dovessero essere costrette a super iniezioni di liquidità, queste si tradurranno in riduzione generale dei tassi di mercato. C'è anche chi teme invece il replicarsi di una crisi bancaria simile a quella del post Lehman Brothers, quando le banche, lo ricorderete molto bene, hanno preso a non prestarsi più denaro tra di loro per molti mesi, interrompendo il circuito interbancario. Gli spread hanno preso il volo, abbiamo visto delle conseguenze per certi versi anche drammatiche per molte famiglie che non riuscivano più a restituire le rate dei mutui. Quindi oggi che cosa facciamo? Cominciamo un po' gli esami su quello che potrà succedere dopo la Brexit su molti fronti, oggi facendo proprio un focus intanto sul tema mutui oltre che mercati. Saluto e ringrazio per essere venuto a ritrovarci Vito Lopse del Sole 24 Ore. Vito, ciao, ben ritrovato. Ciao. In questi giorni in realtà sul quotidiano presente sia sull'aspetto mutui che sull'aspetto mercati finanziari. Roberto Anedda, Mutui Online, ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. E benvenuto a Raffaele Zenti, socio fondatore ed esperto di finanza e gestione dei rischi di Advice Only. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Naturalmente per tutte le domande su questo argomento 800 24 00 24, se avete delle curiosità sul tema prestiti e mutui e mercati. Nei prossimi giorni analizzeremo anche altri argomenti, per esempio cosa cambia per i famosi programmi Erasmus e per gli studenti che hanno questa vocazione internazionale, vanno a studiare in giro per tutta Europa e negli ultimi anni hanno scelto molto spesso anche Londra per completare il loro piano di studi, naturalmente approfittando anche di questi finanziamenti europei. Faremo un punto per chi viaggia Quindi quanto pesa anche la sterlina per chi cerca di naturalmente fare anche dei viaggi a super sconto con le compagnie che sono, come sapete, proprio là, quindi le più note, EasyJet, Ryanair e non solo. Faremo il punto anche della situazione su chi deve andare lì, starci per un po' di tempo e stava immaginando di andare a lavorare a Londra. C'è qualcuno che sta rimettendo un po' in discussione i propri piani, quindi nei prossimi giorni avremo tante cose da analizzare. Per la parte di cuore, poi dopo aver fatto tutto questo preambolo cominciamo la chiacchierata con i nostri ospiti, per la parte di cuore resteremo in qualche modo legati alla Brexit, restiamo a Londra per parlare di tennis. Oggi inizia infatti Wimbledon, che con i suoi 139 anni resta il più affascinante e prestigioso evento del tennis mondiale, ma anche sul torneo si è abbattuto l'effetto Brexit, perché secondo un articolo della Gazzetta questa situazione che si è appunto generata dopo il referendum di settimana scorsa renderà un po' meno ricchi i premi per i tennisti stranieri. E noi però torneremo anche al tennis giocato. Dobbiamo ricordare che nel corso del tempo all'England Club l'England Club appunto ha creato delle leggende, da Roger Federer a Martina Navratilova, e conserva le sue tradizioni. Da rigido dress code si gioca con l'abbigliamento di color bianco all'altezza dell'erba su cui si giocano le partite, che deve essere alta esattamente 8 mm. Insomma, tante cose di cui parlare. Parleremo di questo, parleremo di dritto e rovescio nella seconda parte di Cuore e Denari, quindi tennisti e aspiranti tali, chiamateci all'800 24 00 24. Allora, da che cosa cominciamo? Vito Lopes, comincio un po' con te, intanto un primo commento sulla giornata che si sta aprendo sui mercati finanziari. Questo nuovo rosso, anche abbastanza marcato pure questa mattina, secondo te era ragionevole aspettarselo? Forse qualcuno sperava in un rimbalzino quantomeno, vedo che invece le banche non ce la fanno. Che cosa ti senti di dire su questa apertura? Sì, il rimbalzino è stato tecnico e dopo hanno prevalso i timori degli investitori e la volatilità, perché i mercati, fino a quando non vedono chiaro, ovviamente vendono o comunque non prendono posizioni forti al rialzo. E ovviamente gli investitori, i mercati in questo momento attendono gli incontri politici che si terranno oggi tra appunto Renzi, la Merkel, Holland, e anche gli incontri da parte delle banche centrali a Sintra in Portogallo, e ovviamente attendono delle risposte importanti in questo senso prima di cambiare direzione. In questo momento la direzione è orientata comunque ancora al ribasso. Tra l'altro questa mattina è stato ribadito più volte da Londra che la famosa clausola dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona non verrà fatta scattare fino a quando non lo diranno loro, fino a quando non si sentiranno pronti a formalizzare la loro uscita di scena dall'Unione Europea, proprio come a voler dire forse anche noi non avevamo esattamente contemplato del tutto le conseguenze del voto di giovedì scorso. Raffaele Zenti, Advice Only. È così? Anche voi la pensate in questa maniera? Oppure... No, il commento su questa posizione inglese è che è veramente British, no? Nel senso che loro non dicono, ma noi non lo facciamo valere, se nessun altro lo farà valere potrebbe anche passare paradossalmente in cavalleria, anche se tutto sommato non è molto probabile. Ma noi pensiamo che sia una situazione che va chiarita, ecco. L'importante è avere nei prossimi giorni quantomeno un'agenda di quello che succederà, e questo probabilmente farà prendere una decisione, una direzione ai mercati finanziari. I mercati finanziari sono un po' come una signora anziana che vive da sola da molto tempo e non ama le novità, no? Quindi questa grande incertezza e questa novità non l'ha presa bene. Quando le acque si schiariranno un pochino probabilmente si capirà qualcosa. Sul vostro sito voi avete fatto un'analisi della situazione con un doppio ragionamento: un impatto di breve termine e un impatto di lungo termine. Allora ce lo rifà anche a beneficio dei nostri ascoltatori. La fiammata di vendite si fermerà prima o poi? Sì, impatto quindi di breve termine. Dipende, fa parte di questo, diciamo, di questo cumulo di incertezze che ci sono. Che cosa potrebbe far peggiorare la situazione? Ma per esempio delle situazioni non chiare che emergono, cioè quello che può capitare è che alcune posizioni di operatori intermediari finanziari particolarmente rischiose, aziende particolarmente esposte, tutte quelle cose che vengono fuori e si sta iniziando adesso a metabolizzare l'evento Brexit, quelle cose che vengono fuori nei giorni successivi. Questo potrebbe essere un rischio. Un altro rischio è un attacco speculativo. Sono passati circa 25 anni dall'attacco alla sterlina e alla lira, diciamo, di George Soros, del suo hedge fund. Quindi se qualche grosso operatore finanziario dovesse prendere di mira qualche realtà, potrebbe essere una qualche banca, qualche azienda o anche qualche divisa, le cose potrebbero deteriorarsi. Che cosa invece potrebbe aiutare? Beh, innanzitutto una cosa che aiuta sono proprio i tassi di interesse bassissimi. Investire in obbligazioni con un rendimento nominale spesso negativo, reale sicuramente negativo, non piace a nessuno. Quindi questo fa sì che le persone, tutti, dagli operatori professionali ai risparmiatori, appena poi possono, investano in qualcosa di più redditizio, quindi per esempio nel mercato azionario. Questo è un grosso attrito alla discesa dei valori. E poi c'è da dire che i regulators, quindi le banche centrali, hanno steso in questi anni, dopo la crisi del 2008 e del 2011, un cordone di sicurezza molto importante, quindi sono in grado di intervenire con degli strumenti che anni fa non avevano, e questo senz'altro aiuta. Allora, questo è, come dire, lo scenario ipotizzabile per il breve termine. Poi andremo agli impatti di lungo termine, però vorrei gradualmente avvicinarmi al tema mercato immobiliare e mutui, partendo però direttamente da Londra, ancora con Vito Lops. La sterlina su questi livelli, precipitata nella seduta di giovedì ai minimi da 30 anni, per poi risalire un po', ma siamo adesso intorno a 1,34, solamente in nottata tra giovedì notte e venerdì notte, prima che riaprissero i mercati, aveva avuto la sua fiammata a 1,50 per poi appunto scendere violentemente quando cominciavano già ad essere anticipati i risultati del referendum. Allora, a chi fa bene una sterlina così bassa se ci concentriamo sul mattone e il credito per il mattone? Ma diciamo che la sterlina è ai minimi da 31 anni nei confronti del dollaro, però per quanto riguarda l'euro, da inizio anno perde circa il 6% e quindi è tornata sui livelli di febbraio 2016, quindi è meno imponente il ribasso della sterlina nei confronti dell'euro, perché questa situazione qui di incertezza dell'Unione Europea fa anche vendere l'euro, un po' meno di quanto viene venduta la sterlina. Nell'ottica di un europeo, ovviamente l'euro è comunque oggi più forte rispetto alla sterlina rispetto a qualche tempo fa, quindi ovviamente andare in Inghilterra è ovviamente un vantaggio. Nell'ottica del mercato immobiliare stiamo assistendo ovviamente ad una, per quanto riguarda gli immobili a Londra, abbiamo visto che erano comunque molto molto alti, erano reduci probabilmente da una sorta di bolla finanziaria, in parte alimentata anche dalla Bank of England, dai quantitative easing della Bank of England, e quindi nell'ottica di un investitore europeo ovviamente potrebbe essere un momento un po' migliore ora per andare in quel mercato, anche se aspetterei, visto che i prezzi comunque erano molto alti, e ripeto, la volatilità potrebbe continuare nei prossimi mesi, anche perché le banche centrali ovviamente dovranno dare una risposta a giorni su quello che è successo. Allora, tra l'altro, adesso non so quanti italiani avessero in mente di comprarsi una casa a Londra, se avessero così nella loro testa un progetto di questo tipo, magari molti di più gli italiani che invece stavano meditando di fare un'operazione nel proprio paese, in Italia. Di loro parleremo subito dopo il traffico con Roberto Anedda, e continueremo anche su questo terreno con Vito Lops, che peraltro, non ho ricordato, è autore anche del Mutuo Perfetto, un restyling di una pubblicazione già fatta qualche tempo fa. Adesso nella nuova versione c'è tutta l'analisi sul mutuo, oppure farne uno nuovo, rottamare il vecchio, appunto nell'era dei tassi bassi, bassissimi. Traffico a tra poco. Cuore e denari. Un ascoltatore su WhatsApp mi scrive: siamo una piccola impresa, mi stavo informando per un prestito per aprire un nuovo negozio, cambia qualcosa con il Brexit? Con la Brexit, peraltro qua non sappiamo neanche se dare a questo evento una connotazione femminile o maschile, ma insomma da exit, quindi direi che femminile ci piace di più. Roberto Anedda, chissà quante domande cominceranno ad arrivare di questo tenore da qui a poco. Allora, magari nell'immediato non cambia nulla, chi aveva già inoltrato una domanda alla propria banca forse la vedrà soddisfatta, ma insomma chi ce lo dice? Se uno va da Banca Intesa o da Unicredit in queste ore con questi tracolli che hanno avuto, meno 20% solo nella seduta di venerdì, questa mattina un altro meno 7, meno 8%, con una capitalizzazione di borsa che scende in una misura così imponente. Che ce lo dice? Che se anche ci avevano dato il via libera ad un prestito, ad un mutuo settimana scorsa, questa settimana non si sentano nella, come dire, nel diritto di cambiare condizione. E come gestiamo questa situazione? Ah, diciamo innanzitutto che l'andamento in borsa di per sé dei titoli bancari non incide, fortunatamente non influisce, non ha direttamente una relazione diretta. Sì, sulla capacità erogativa o sulla decisione delle banche di spingere o meno sull'erogazione dei mutui. L'abbiamo visto peraltro proprio durante quest'anno, quando, al di là dell'effetto Brexit, come sappiamo, il mondo bancario italiano è rimasto sotto la lente di ingrandimento, insomma, dei mercati per tutte le vicissitudini legate a banche piccole e meno piccole, con tutta una serie di problematiche, di insomma, sofferenze, ricapitalizzazioni, Atlante, cose varie, che ha fatto fare delle belle altalene alle quotazioni di titoli bancari. Quindi ah anche già, conforti... Non abbiamo ricordato che è saltata la quotazione di Veneto Banca, tra perché l'altro è andata fallita appunto l'operazione di aumento di capitale, cosa peraltro ben attesa, chiusa parentesi. Esatto. E quindi nonostante anche quegli alti e bassi, gli istituti, a partire insomma, da quelli più solidi e con ampia presenza sui mercati, hanno continuato tranquillamente ad erogare mutui, addirittura a tassi sempre più ridotti, perché gli spread dall'inizio dell'anno si sono gradualmente ridotti, seguendo quello che è un po' la dinamica del costo del denaro e di questa liquidità disponibile ampiamente grazie alle manovre che la BCE ormai da diversi anni sta ponendo in campo. Quindi di per sé questa situazione di tensione e di incertezza e volatilità non incide su quella che è nel breve la decisione delle banche di erogare. Però è anche vero che oggi vediamo come tante case di investimento abbiano prudenzialmente abbassato il grado di valutazione, i giudizi di valutazione delle diverse banche, per cui da giudizi di buy, cioè di investire in o di comprare il titolo, sono tornati indietro a un cosiddetto equal weight inglese, cioè tenere insomma neutro in attesa di decisione. E questo da un certo punto di vista nello scenario Brexit mi fa richiamare un famosissimo ed efficacissimo titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Il fate presto oppure svegliati Europa del weekend. Tutte e due, però il fate presto è una cosa che effettivamente pare che gli stessi inglesi non avessero ben capito che cosa fare dopo la Brexit. E quindi chiaramente, dicevamo poco fa, il mercato non gradisce l'incertezza. E man mano bisognerà che capisca come questa Brexit e le sue conseguenze possono essere gestite. Quello che ci si può aspettare in un tempo un po' più lungo è che se dovessero proseguire le tensioni sui mercati e le incertezze, ad esempio sui titoli bancari, per certi titoli bancari italiani per certe banche italiane potrebbe esserci un problema di spread, in questo caso inteso come differenziale del costo del capitale che queste banche andrebbero a pagare sul mercato rispetto a quello che è la media delle banche italiane. Il costo del denaro, di quel denaro che si prestano tra di loro sostanzialmente. Esattamente, proprio perché il mercato potrebbe valutare che certi istituti, quelli insomma con dei coefficienti meno positivi rispetto ad altri o con posizioni ancora in fase di consolidamento o miglioramento, potrebbero essere oggetto di attenzione e quindi un domani non potrebbero accedere alle condizioni di liquidità a costo zero, addirittura certo, sotto zero di adesso. C'è da dire però che in Italia la gran parte dell'erogazione è fatta da istituti molto grossi e che non sono in questa prospettiva, e quindi da questo punto di vista è abbastanza, come dire, improbabile pensare che ci possa essere un'improvvisa riduzione, contrazione esatto del mercato. E poi come abbiamo detto anche prima, qualunque effetto di questo tipo potrebbe essere arginato dalla rete di protezione esistente in questo momento da parte della Banca Centrale Europea. Raffaele Zenti, anche lei un commento sulla situazione del credito e della finanza, diciamo, domestica ed europea, sia come tema di investimento, diciamo, perché anche con questi titoli così sottovalutati ci chiediamo se effettivamente, anche se l'effetto Brexit abbia ragionevolmente mandato a picco le quotazioni di questi titoli, che comunque soprattutto le due big italiane alla fine sono delle banche ben solide, ben patrimonializzate, una con una grandissima vocazione internazionale. Quindi uno, credito come tema di investimento; secondo, tassi di mercato come sostegno all'economia reale. Che situazione vede? Beh, dunque, il discorso delle opportunità di investimento si può estendere anche al di là delle banche, no? Perché è un grande classico. Quando Quando succedono questi episodi con delle cadute significative dei valori di borsa, secondo me è meglio pensare a una situazione di saldo, finalmente ci sono i saldi piuttosto che abbiamo bruciato dei risparmi. Quindi da adesso in avanti bisogna tenere le antenne dritte e valutare delle opportunità di acquisto che possono includere anche il credito. Nello specifico sulle banche, in particolare quelle italiane, io sarei molto cauto, perché diciamo quella della Brexit è la goccia che fa traboccare il vaso, perché comunque le banche vengono da un periodo non particolarmente felice. Ci sono dei motivi, sia emotivi legati alle vicende ben note di alcune banche, ma anche a dei motivi molto oggettivi che sono legati appunto ai cosiddetti non performing loans, quindi questi crediti delle banche non in buona salute, e che impediscono alle banche di erogare nuovo credito alle imprese e alle famiglie, quindi impediscono alle banche di lavorare, quindi di essere profittevoli. Le banche italiane in particolare non sono molto profittevoli, quindi io sinceramente non mi sentirei di consigliare in questo momento è molto rischioso, potrebbe anche essere interessante ma è molto rischioso, in particolare poi per singoli risparmiatori. Insomma, il risparmiatore è bene che investa in strumenti che abbiano già al loro interno una diversificazione, quindi ETF, fondi, ce ne sono, il mercato è pieno, quindi c'è un'ampia scelta, meglio evitare singoli titoli con i loro rischi specifici che sono spesso importanti e lo vedete in questi giorni. E per quanto riguarda la situazione dei tassi e dei mutui, Ma questo potrebbe essere uno degli effetti di lungo periodo, cioè vediamo come va avanti. È ovvio che se questa Brexit va a innescare una recessione con un calo della domanda da parte dei consumatori e una riduzione in generale di tutto ciò che è crescita economica, difficile pensare che il credito non ne subisca qualche conseguenza. Però è anche vero che ci sono le protezioni messe sul campo dalla Banca Centrale Europea vanno proprio a cercare di evitare di ripetersi di una situazione di credit crunch. Quindi allora, abbiamo pronti Stefano da Trento e Michele da Salerno, ma io in realtà tra un minuto devo dare la linea alla regia per il giornale radio, per cui li rinvio la seconda parte della trasmissione, ma questi 40 secondi di tempo li spendo con Vito Lopes, sperando che possa fermarsi poi per qualche altro minuto. Sui tassi interbancari in questi giorni, che cosa è successo? L'Euribor a 3 mesi, ci chiede un ascoltatore, ha subito dei contraccolpi da questa crisi? Ma lo scopriremo fra mezz'ora, perché viene pubblicato di solito tra le 11 e le 11.30, ma non dovrebbe subire contraccolpi. Rimane ancora largamente negativo. Largamente negativo, e tra l'altro, qualora la Banca Centrale Europea fosse costretta a nuove misure espansive proprio in ragione del Brexit, eccetera, eccetera, e magari andasse a tagliare ulteriormente il tasso sui depositi, che in questo momento è meno 0,4, e lo portasse a meno 0,5, non è da escludere che l'Euribor, che è un po' agganciato a questo parametro, possa continuare a scendere ancora più nel territorio inesplorato. Così come l'altro tasso, quello l'IRS, legato ai mutui a tasso fisso, è agganciato al rendimento del Bund, siccome stanno tutti comprando Bund in questo momento, potrebbe negativo anche quello, sempre anche più quel basso. Allora, il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, Cuore e Denari riapre la settimana più o meno con lo stesso tenore da cui si erano concluse le nostre trasmissioni appunto venerdì scorso. Abbiamo fatto, ricorderete bene, venerdì proprio una puntata straordinaria dedicata all'effetto Brexit sui mercati finanziari. Siamo andati a Londra, abbiamo cercato di capire che cosa sia successo, perché un impatto così dirompente da questa volontà manifestata dal popolo britannico di uscire dall'Unione Europea. europea per l'appunto, e oggi l'effetto si sente ancora perché i mercati sono negativi anche questa mattina, con una grossa variabilità, una discreta volatilità, vedo, perché adesso sono tutte ancora, come dicevo, in rosso, ma il miglioramento rispetto all'aggiornamento che abbiamo fatto una mezz'ora fa, circa meno 0,8% a Parigi e a Francoforte, Londra peggiore, invece sta perdendo 1,5% e Milano riduce la perdita a 0,5%, acquisti che si stanno facendo un po' più intensi sul settore difensivo, invece non ne vedo nessun tipo di miglioramento sul settore bancario. Allora, banche italiane con questa situazione, mutui e prestiti per le famiglie, dove andiamo, che scenario si manifesta per chi un mutuo ce l'ha, per chi lo vorrebbe sottoscrivere e poi per chi vorrebbe investire, magari approfittando di questa situazione, cosa fare? Naturalmente fare molta attenzione, diversificare il rischio. Questi un po' i messaggi chiave che sono emersi dalla prima parte del programma. Vito Lops, siccome fra un pochino deve salutarci, vorrei completare con te il ragionamento che stavamo iniziando prima sui tassi di mercato a cui vengono parametrati i mutui che sottoscrivono le famiglie italiane. Quindi Euribor ha diverse scadenze per il mutuo a tasso variabile, l'IRS per il tasso fisso invece. La situazione di questi giorni, lo ribadiamo un po', che cosa si è manifestato e quindi... Ecco, l'Euribor al momento non dovrebbe, almeno nel breve periodo, dare segnali di scossoni e quindi rimanere saldamente sotto lo zero, sia per quanto riguarda l'Euribor un mese che per quanto riguarda il trimestrale. L'indice IRS, che riguarda i mutui e tasso fisso, segue abbastanza direttamente l'andamento del tasso del Bund tedesco. Sì. Tasso che scende quando viene comprato, direi. E il Bund tedesco viene comprato nei momenti di tensione. Quindi paradossalmente in questo momento il tasso fisso sta diventando ancora più a sconto rispetto a qualche mese fa, proprio perché quando ci sono le tempeste finanziarie, per questa dinamica che abbiamo spiegato, il tasso interbancario del mutuo a tasso fisso tende a essere meno costoso. Ovviamente anche qui bisogna fare molta attenzione poi tra il giorno del preventivo e il giorno della stipula, perché ricordiamo che uno può fare un preventivo oggi ma stipulare anche fra 6 mesi, e non è detto che l'IRS sarà poi quello di questo momento. Quindi non avere anche molta attenzione, come in qualsiasi comportamento sul mutuo, alle tempistiche con cui si fanno le operazioni. Quindi blindare il preventivo, se cercare è molto conveniente. Esatto. Cercare di farsi mettere una clausola e bloccare magari questo tipo di IRS. Certo. Aned, è d'accordo con queste indicazioni date da Vito Lops? Lui ha scritto il mutuo perfetto, per cui prendiamo sempre dalle sue labbra quando appunto pontifica sull'argomento, ma anche le vostre considerazioni sono sempre assolutamente pertinenti. Facciamo uno scenario differenziato a seconda delle situazioni con le quali possiamo trovarci ad avere a che fare. Allora, chi il mutuo ce l'ha già, se ha un tasso fisso stipulato da tempo in una cassaforte, diciamo, può rimanere anche del tutto indifferente rispetto a questi scenari di volatilità sul mercato. Ah, vedo che Nicchia già non è d'accordo. Beh, chi c'ha il variabile può essere sottoposto a qualche singhiozzo in più. In sì, positivo, cioè... paradossalmente, se i tassi addirittura dovessero scendere ancora, comprimersi ancora, anche se veramente, per quanto possano essere importanti ed imponenti le iniziative delle banche centrali, più in basso di così non so dove possono ancora andare a finire. Forse lo scenario più incerto di tutti è per chi da ex novo deve fare una scelta di questo tipo. Da dove vuole cominciare? Sì, beh, le casistiche sono proprio quattro. Chi il mutuo ce l'ha già, a tasso fisso o a tasso variabile, chi invece dovrebbe eventualmente farlo, e anche qui decidere su che tipo di tasso andare. Partendo da chi ce l'ha già, dubitavo, meglio, insomma, ragionavo ulteriormente in diretta su chi può star tranquillo nel caso che abbia il tasso fisso, perché se ce l'ha da tempo, in realtà, per quanto sono scesi i tassi ormai ai minimi storici assoluti e abbondanti, chi ha un tasso fisso, chi dovesse avere un mutuo a tasso fisso da parecchio tempo, dovrebbe invece valutare, se non lo dovesse aver già fatto prima, l'opportunità della surroga, perché avrebbe la possibilità di passare da un tasso che mediamente sarebbe almeno del 5 o del 6%, prendendo quelle che sono state le medie di erogazione sui tassi fissi, senza arrivare ai massimi, ma diciamo come tassi medi dal 2011 indietro, e adesso avrebbe la possibilità di passare a un tasso fisso sul mutuo residuo addirittura al 2%, in alcuni casi anche certo, sotto, con dei risparmi che sono enormi. Perché, tanto per fare un esempio, se uno avesse fatto il mutuo a tasso fisso pochi anni fa, durante la crisi recente, passando a un nuovo tasso fisso potrebbe risparmiare dai 50, 60 fino anche oltre 100.000 euro, se si parla di un mutuo a 30 anni, ad esempio. Ma paradossalmente anche chi avesse fatto un mutuo 10 anni fa avrebbe tuttora la possibilità, dato quel tipo di livello di tassi che c'erano ai tempi, di risparmiare tranquillamente dei 30 ai 40 mila euro, quindi delle cifre notevoli. Incredibile. Rispetto... Che ci ristrutturi una casa, sì, ne compri un'altra e la ristrutturi completamente. Assolutamente. E per chi invece dovesse avere un mutuo in essere a tasso variabile, chiaramente gode in pieno di Euribor negativi, di cui spiegava prima benissimo Vito, e quindi non ha un particolare incentivo o motivo per come dire, cercare o di cambiarlo o di rimborsarlo anticipatamente, perché dicevamo prima fuori onda, in questo momento più si rimane indebitati a basso costo e meglio è, perché è inutile tirar fuori dei soldi facendo quasi un favore alla banca restituendogli anticipatamente una liquidità quando ci si paga un tasso così ridotto. L'unico caso potrebbe essere di un variabile, anche in questo caso acceso, in momenti in cui lo spread fosse particolarmente elevato, certo, magari 2-3 punti percentuali superiori a quelli attuali, in questo caso si potrebbe anche lì valutare eventualmente una surroga, se il mutuo ancora certo, una durata lunga. È comunque uno scenario favorevole ad una chiacchierata con il nostro consulente in banca per vedere se è il caso di cambiare un pochino strategia. Ricordiamo che oggi i mutui non sono più rigidi come una volta, quindi tanti cambiamenti e tante rinegoziazioni si possono fare. È sempre un po' l'incubo ovviamente dell'interlocutore bancario quando si comincia a creare la fila proprio per discutere di questi argomenti, però insomma di questo scenario devono farsene una ragione le banche italiane. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Salutiamo intanto Vito Lops, ve lo ricordo, deve andare, autore del Mutuo Perfetto, un restyling di un libro già pubblicato alla luce dei nuovi scenari con i tassi a zero, quindi cosa cambia per chi ha il mutuo. Ma volevo chiedere a Raffaele Zenti, Advice Only, la vostra è una piattaforma di consulenza indipendente, voi suggerite particolarmente a tutti quei risparmiatori che sottoscrivono, che si iscrivono appunto alla vostra piattaforma, dei portafogli di investimenti basati fondamentalmente su ETF, ma non solo. Che tipo di domande stanno facendo i clienti che si rivolgono a voi appunto in questo scenario di tassi di interesse così bassi? Quali sono proprio quei temi particolarmente ostici da digerire? So che in una condizione di titoli di Stato italiani che rendono a zero e sotto zero è veramente ancora, come dire, il tema più indigesto per molti risparmiatori. Che cos'altro si chiede in una fase così originale come quella che stiamo attraversando in questo momento? Ma direi che si pongono la domanda che si pone anche un po' tutto il sistema del risparmio gestito, e cioè cosa fare col proprio portafoglio quando il mondo obbligazionario ha dei rendimenti così compressi, spesso ampiamente negativi, da essere inappetibile anche a, come dire, a un occhio col semplice buonsenso. Ecco, non c'è bisogno di grande esperienza in finanza per capire che non è particolarmente interessante, e nello stesso tempo c'è un po' la paura, anche qui direi motivata, parzialmente motivata, a portarsi su attivi che hanno molto più rischio, cioè, quindi in larga parte sono attivi azionari. Quindi questo è un po' il punto, ma è il punto che, come dire, ci ha portato così la politica monetaria degli ultimi, direi, 10-15 anni a ridurre continuamente i tassi di interesse. Si sono evitati dei disastri a livello di sistema bancario, a livello di sistema economico, peraltro non senza, come dire, problemi, però insomma si è evitato il collasso del sistema bancario, ma si spinge tutto il mondo che investe i propri risparmi verso attivi più rischiosi, certo. E non tutti sono, cioè, è una cosa difficile, ecco, quindi su questo è un punto d'attenzione sostanziale, quindi non è una paura irrazionale, ma è un punto col quale bisogna imparare a convivere, e come si convive con buon senso, quindi con appunto dei portafogli il più possibile diversificati, perché non ci sono soluzioni magiche, ecco quello che succede è che a volte si vedono questi risparmiatori alla ricerca dell'affare del secolo, no? C'è un po' in Italia, specialmente c'è la libido speculandi, no? L'idea, la grandissima furbizia, l'idea vincente su tutti. Purtroppo non c'è, quindi abbiamo raccolto, di buon senso. Le racconto questa cosa, delle testimonianze anche di ascoltatori che ci raccontano: sono andati in quella banca, mi offriva un BTP a questo rendimento, poi sono andati in un'altra e mi dava un BTP a rendimento più alto. Questo per chiudere un po' le considerazioni che fanno, ovviamente le persone che sono soprattutto un po' a digiuno di situazioni finanziarie, di questioni finanziarie, però questo è un po' l'approccio che hanno a volte, proprio ancora si affidano molto ovviamente all'interlocutore bancario, immaginando che sia dietro lo sportello la ricetta magica per far moltiplicare il proprio denaro, il rendimento dei propri risparmi. In realtà fanno molta fatica a contestualizzare proprio la situazione della banca rispetto anche allo scenario internazionale. Vi faccio sentire un paio di ascoltatori, poi dobbiamo completare con Roberto Anedda la nostra casistica, parlando anche di coloro che invece devono fare in questa fase la scelta per il mutuo che fa al caso proprio. Allora, sentirei Michele dalla provincia di Salerno, rimanendo un po' sul tema mercati finanziari. Michele, benvenuto. Buongiorno a voi. Posso già parlare? Certo, certamente Michele. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. La mia domanda riguarda il discorso del ruolo della valuta sterlina nei mercati internazionali. Voglio dire, adesso che è successo tutto questo trambusto, non è che magari è la volta buona per cui la valuta sterlina perda il suo ruolo di riserva mondiale, insieme allo yen, al dollaro, all'euro, e questo a favore dello yuan cinese. Magari non aspettano altro questi signori per assumere un ruolo di primo piano a livello di mercati valutari. Non potrebbe essere una conseguenza realistica? Grazie Michele, guarda, dovremmo fare una puntata esclusivamente focalizzata forse sulla questione valutaria, magari se ne incaricherà Sebastiano Barisoni a Focus Economia, e magari un focus lo faremo anche giovedì con Investire Informati. Michele, intanto la ringrazio per le sollecitazioni, se però Raffaele Zenti ha un'idea su questo, su questa riorganizzazione del paniere mondiale delle valute, appunto quali diventeranno alla luce di questo tracollo della sterlina le nuove di riferimento, quelle più forti. Beh, il dollaro mi pare che già in questi giorni una certa tendenza l'abbia manifestata. Allora, il tema dello yuan che diventa una nuova valuta di riserva ritorna ciclicamente, sicuramente qualche cosa che anche, come dire, al governo cinese interessa, è una possibilità che non si può escludere. Diciamo che in questi giorni non si vede il ruolo dello yuan in tal senso, perché comunque non, insomma, è piuttosto volatile, non nella direzione giusta. Probabile che si indebolisca il ruolo della sterlina, questo senz'altro. È una sterlina dal futuro quanto mai opaco, addirittura potrebbe anche, ci sono degli scenari apocalittici di divisione all'interno del Regno Unito, la Scozia va da una parte, l'Inghilterra dall'altra, quindi prima di tutto bisogna capire, e in tutto questo è abbastanza probabile che la sterlina ne risulti indebolita. Quello che ci dicono i mercati in questi giorni però è che le valute difensive, le valute diciamo di riserva, sono sempre più o meno le stesse, quindi in primis il dollaro e anche lo yen giapponese e magari altre valute comunque solide come potrebbero essere il dollaro canadese, quindi per adesso nulla di nuovo. Stefano da Trento, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno, grazie. Io volevo parlare di surroga del mutuo, sì. È legato chiaramente alle situazioni del mercato. Allora, io avevo mia moglie un mutuo trentennale, sono rimasti 20 anni di debito residuo a Caresilva, a un tasso che è adesso del 2,85%. Ho visto su internet un po' di proposte, ho fatto un po' di preventivi, sono andato in una banca, fatto un colloquio, tutto il profilo. Questa banca sta proponendo anche sul sito un tasso dell'1,40%. Allora, tutto bene, poi aggiungo un dettaglio, insomma, non sono un cliente, non siamo in memoria clienti a rischio, siamo entrambi dipendenti pubblici, il reddito netto 3.400 euro al mese. Quindi, insomma, buon merito di credito. La rata del mutuo si aggira sui 748 euro attualmente. Con le nuove proposte potevo arrivare a 630, cosa che ovviamente dico mi pago l'università al figlio in qualche modo. Vorrebbe vedere. Allora, esatto. Allora, vado, tutto bene, fanno tre. Alla fine, tasso complessivo che loro mettono fuori, mi chiede da preventivo che me l'ho consegnato, arrivo al 2,40%. E chiedo spiegazione, dico, ma come mai? Dico, da 1,40, eravamo il 2,40. Ma sa, oltre ipotecario, noi chiediamo al cliente di stipulare anche una polizza di quella di copertura del rischio, eccetera, no? 6.000 euro di polizza, chiaramente incide sul costo e va pagata l'unica soluzione, quella in anticipo. Quindi non gliela spalmano neanche, Stefano. Esatto, quindi dico, ma e questo fa schizzare tutto il tasso complessivo. Stefano, quindi che cosa farà? Per 40 euro al mese non mi cambia la vita, per carità, se ci penserà, ma però mi sono chiesto se questo modo di operare non è che non sia trasparente, ma perché uno basta che si lega le cose, non è quello. Però mi sono chiesto se non abbia a che fare con le paure delle banche, che, insomma, sappiamo i casini che stanno passando, per tutelarsi ancora più. Perché, sa Stefano, lei ha di fronte a sé comunque, se deve fare una surroga, altri 20 anni di rimborso del mutuo, quindi per quanto noi naturalmente le auguriamo tutto il meglio possibile, sono tanti, quindi è giusto che anche una banca si tuteli. Mi sembra anche per 20 anni forse un importo ragionevole come polizza, Roberto Anedda. Il tema vero è, se tu mi proponi un tasso dell'1,40, che è una bella proposta commerciale civetta, poi non è che può raddoppiare nel momento in cui questa persona qua completa la sua istruttoria in banca e diventa il doppio esatto, e quindi a lui non cambia niente, rimane nella vecchia. O la fai veramente efficace questa proposta commerciale, no, che la non lo so, che è una prassi diffusa questa, Anedda, ancora, insomma, queste offerte così poco trasparenti da parte del sistema bancario, qui ha voglia di difenderle qualche volta, ma proprio facciamo fatica. Sono d'accordo. Il problema è che periodicamente questa politica di commerciale, diciamo così, di aggiungere, proporre polizze inevitabilmente costose, perché hanno una componente di rischio vita o rischio morte, che è quella che pesa di più, soprattutto su mutui di lunga durata, perché scontano il fatto poi di quella che sarà l'età del cliente a scadenza. Ma detto questo, c'è da dire innanzitutto che non tutte le banche fortunatamente seguono questa politica. Le banche sono tante e purtroppo a volte ci sono quelle che cercano in maniera più spinta di migliorare complessivamente il proprio risultato economico, che purtroppo i tassi a zero sotto zero riducono notevolmente anche con questi metodi, a prescindere da quello che è anche il livello di rischio effettivo dell'operazione, perché per quello che descriveva adesso l'ascoltatore non siamo in una situazione di problematica particolare di rischio, un livello di credito assolutamente tranquillo, e che onestamente molte altre banche, insomma, noi di Mutui Online lavoriamo con 60 banche diverse, quindi vediamo le situazioni più ne vedete di tutti esatto, i colori, le situazioni più diverse, e posso dire che ci sono, adesso non so nello specifico di quale banca si tratti, ma tranquillamente sul mercato è una grande, molto grande tra le due più grandi, esatto. Posso immaginare quale sia, però quindi una dei consigli è sempre quello di verificare su più alternative, a prescindere da quella che può essere l'unica offerta. Lui era attratto, evidentemente ha fatto questo ottimo ragionamento, dice cavoli, cioè, riduco dell'1% il tasso, ci pago l'università mio figlio, faccio la surroga, sono un profilo assolutamente affidabile, per quale motivo non mi dovrebbero accettare? Adesso vorrei godere di questa opportunità che c'è di mobilità appunto sul mercato bancario, per cui rifaccia un altro giro di mercato e magari ci sarà qualcuno, Stefano, se non mi ricordo male, si è disposto ad accoglierla. Davide da Reggio Emilia voleva chiedere, senza farlo intervenire perché sto chiudendo la trasmissione, Davide, come si fa a capire quando la banca si approfitta del cliente aumentando lo spread e i tassi? Deve comunicarlo intanto, non è che lo può fare così di soppiatto, Anedda. Sì, anche perché appunto i tassi il mutuo, li controlla, è già in essere, può aumentare lo spread così proditoriamente, e allo stesso tempo è sempre bene comunque verificare rata per rata quale sia il calcolo che la banca sta applicando, perché anche fosse solo un errore amministrativo, ma ci mancherebbe altro, è sempre meglio, una volta fatto il mutuo, come purtroppo invece fanno la gran parte degli italiani, non mettere una cartellina che finisce chissà dove, e già dopo 2-3 anni noi parliamo con clienti che non sanno neanche più da quanti anni lo pagano, che tasso pagano, esattamente, e così via. Infatti. Raffaele Zenti, allora noi tra po' chiudiamo questa nostra trasmissione, abbiamo fatto un mix fra mercati finanziari e scelte di vita quotidiana degli italiani, abbiamo cominciato oggi con i mutui, appunto poi nei prossimi giorni affronteremo anche altri aspetti legati a questo referendum britannico. Detto questo, abbiamo avuto modo di sperimentare negli ultimi anni che l'estate porta sempre qualche fatto curioso, tale da come dire, scombinare un po' le attese sull'andamento dei mercati finanziari. Tanto per ricordare l'ultima, l'estate scorsa, appunto, prima c'era la Grecia, poi ad un certo punto ad agosto la Cina ha bussato la porta e, come dico io sempre, ha fatto scomparire la Grecia da tutte le pagine di tutti i giornali. Allora, secondo lei, alla luce anche dell'effetto di questo referendum britannico, cosa dobbiamo aspettarci da questa estate, sapendo bene che lei non ha la sfera di cristallo, che non ha un turbante in testa e quindi non è in grado di fare delle previsioni magiche, però insomma i vostri modelli anche previsionali a che cosa suggeriscono di prestare attenzione? Beh, direi che il fattore principale, cioè ce ne sono diversi, però ecco, il fattore principale rimane proprio la Brexit. Quindi gli sviluppi, ciò che accadrà, non stiamo parlando di tempi brevi, perché c'è in mezzo la diplomazia, la negoziazione tra stati, quindi ci terrà, come dire, terrà calda questa estate. Altri fattori di rischio, quindi punti d'attenzione, sono senz'altro legati alla Cina, che ormai da circa un anno e mezzo periodicamente ci intrattiene con delle notizie e dei dati che fanno preoccupare, poi dopo si torna indietro, però ecco, non è assolutamente, non si può escludere qualche ritorno. Direi che non sarei abbastanza tranquillo sul fronte tassi americani, perché la probabilità che gli Stati Uniti, nulla si può escludere, però la probabilità che gli Stati Uniti rialzino i tassi con effetti non si sanno, ecco, per gli effetti, perché come ricordano molti, ci sono operatori finanziari, professionisti che da quando lavorano non hanno mai visto un rialzo dei tassi della Fed, quindi è qualcosa di relativamente nuovo. No, è vero, però è abbastanza improbabile che la Fed, che guarda, ma che ci vede lungo e guarda un po' al mondo intero, in questa situazione, in questo marasma, adesso decida di alzare i tassi. Poi per definizione queste cose che accadono d'estate sono degli imprevisti, e quindi sono dei cignetti neri, dei corvi che passano, quindi veramente non possiamo prevedere. Delle opportunità di investimento per qualcuno. Roberto Anedda, devo dare la linea alla regia, io devo raccontare cosa succede stamattina in borsa, ma altri 30 secondi glieli regalo. Allora, la regola da seguire, la più importante per chi invece si accinge adesso a fare il mutuo. Lo so che ci vorrebbe una puntata a sé, però eravamo rimasti indietro su questo argomento. Le due regoline di base le possiamo dare. Diciamo molto sinteticamente, per quello che abbiamo detto in questa puntata, per gli scenari, se si deve fare un mutuo di medio-lungo termine, dato che ci potrebbero essere incertezze sul domani, visti i tassi ai minimi, forse meglio un fisso, perché potendo fare un fisso al 2, addirittura sotto, che certamente è un punto sopra rispetto a quello che si potrebbe fare con il variabile, ma tutto sommato, rispetto anche allo storico, è un costo assicurativo, in questo caso positivo. Con questo nervosismo direi che ci si assicura ci un tasso ai minimi, una rata veramente contenuta. Per chi invece deve fare un mutuo a breve o comunque con una rata molto contenuta rispetto al reddito, tutto sommato il variabile rappresenta invece un rischio tollerabile o gestibile. Grazie Roberto Nedda, Raffaele Zenti per essere stati con noi. Io vado a raccontare adesso ai nostri ascoltatori cosa succede in borsa questa mattina, riepiloghiamo un po' la situazione e poi parleremo invece di, sempre rimanendo a Londra, di Wimbledon e di tennis tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Cuore e Denari. Paradise dei Coldplay ci porta di nuovo in Inghilterra, insomma in realtà stiamo facendo anche un po' quasi quasi il gioco di questa popolazione che di noi non vuole più sentir parlare, invece noi continuiamo a parlare di loro su tutti gli aspetti più interessanti che sono emersi da questo referendum di giovedì scorso. Abbiamo toccato il tema mutui, i mercati finanziari, ne riparleremo di nuovo nei prossimi giorni, ma noi torniamo nella City anche per parlare di un evento sportivo che coinvolge tutti gli amanti dello sport, ma soprattutto gli appassionati di tennis, e sono tantissimi, perché cominciano oggi le due settimane più attese dell'anno. Inizia Wimbledon, il torneo più amato e rispettato dagli stessi atleti, e chissà quanti turisti saranno andati là per godersi questa manifestazione sportiva e approfitteranno della sterlina debole, almeno questo come effetto, portiamocelo a casa. Non solo 15 giorni di tennis sull'erba, ma anche un mondo di tradizioni e valori che si rinnova da tantissimi anni. Pensate che l'effetto Wimbledon si sta diffondendo al punto che una scuola dei sobborghi di Londra, la High Wharton Sion, servirà ai propri studenti il Wimbledon Special Menu. Si tratta di una lista delle specialità culinarie inglesi portate nel menù con soprannomi tennistici, e quindi tanto per invogliare anche i bambini. Si passa da un bel piatto di pasta alla Fred Perry, alla torta muffin alla carota del campo centrale, passando per il Sandvik di polpette speziate di Djokovic. Ma non solo questi grandi eventi sportivi portano con sé l'effetto emulazione. Gli europei, per gli europei sono un invito a nozze per gli amici del calcetto, e Wimbledon farà con il tennis la stessa cosa. Anche se poi non è che sia così immediato prendere dimestichezza con la racchetta e la pallina, fare dritto e rovescio, torsioni pericolose per la schiena. Per cui, appassionati di tennis, questa è la puntata per voi. Chiamateci anche se siete indecisi, se scendere in campo o meno con il nostro esperto. Cercheremo di darvi la risposta che cercate, e in linea con noi abbiamo scomodato questa mattina un amico di Cuore Denari, che è il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Umani. Buongiorno dottore, bentornato. Ce l'abbiamo, dov'è finito Respizzi? Pronto, eccoci. Pronto. Si era distratto, stava già sognando sulle partite dell'Europeo, o era più concentrato su Wimbledon? Ma tutte e due le cose, direi che stasera è bella calda. È vero, e poi farò vedere l'erbetta fresca di Wimbledon. Ecco, diciamo che il tema caldo è la parola giusta di questi giorni, perché su Milano è arrivata, come era logico aspettarsi, esatto, la cappa insopportabile. La famosa cappa milanese. Esatto, però insomma l'abbiamo evocata tanto, adesso ce la teniamo, io ne sono ben contenta. Allora, professore Spizzi, dottore Spizzi, lei come preferisce essere chiamato di solito, dottore o professore? Sono dottore, non sono un professore, quindi è un abuso. Dottore Spizzi. Sarebbe un abuso. Allora, Djokovic, che è stato più che Djokovic, che è stato impegnato in questi giorni nel torneo di esibizione, Boodles Tennis Challenge, e ha mandato in delirio la folla spogliandosi. O Federer, per chi tifiamo? Federer, tutta la vita. Tutta la vita, grande campione. Io non sono una grande esperta, per cui non me la sento neanche di sbilanciarmi. Djokovic è un fenomenale anche lui, però insomma quello che ha fatto Federer deve ancora raggiungerlo. Certo. E quindi poi il fatto che sia ancora lì a 35 anni a giocarsela mi sembra un segnale molto forte di serietà professionale, di capacità di allenamento, eccetera, eccetera. Chissà insomma. Per chi tifano i nostri ascoltatori appassionati di tennis, pur avendo la mente impegnata con il calcio e la partita con le Furie Rosse di questa sera, in realtà cerchiamo anche di fare un sondaggio sui campioni del tennis, e anche in Italia insomma ne ha raccontati un bel po'. Allora, dottore Spizzi, il tennis è adatto a tutti o bisogna avere delle caratteristiche fisiche precise? Io da donna ovviamente la mia testa va sempre alla figura imponente delle prestanti sorelle Williams, e quindi già vedo che la donna insomma dal punto di vista fisico deve avere una predisposizione non indifferente, ma anche una persona magari un pochino più mingherlina con un buon allenamento può dare il massimo, può dare il meglio di sé in questa disciplina sportiva? Ma assolutamente sì, perché è vero che noi siamo abituati a vedere le due Williams che sono enormi, ma c'è anche la Sharapova, ma c'è anche la nostra Errani, che sarà alto 1,60 m ed è piccolina. È uno sport che può essere praticato sostanzialmente da tutti. Poi è evidente che nel caso delle Williams hanno un grosso vantaggio fisico, perché sostanzialmente hanno la potenza di un uomo non tanto grosso rispetto a delle ragazze che sono più piccole. Ma è uno sport che può essere praticato assolutamente da tutti, e in particolare è uno degli sport più praticati in età avanzata. Ci sono molte persone che continuano a giocare con gli amici magari fino a 70-75 anni. Chiaramente cala il ritmo, si riduce l'intensità di gioco, però se uno lo vede come uno scambio di divertimento, anche giocando magari in quattro, si fa il doppio misto marito e moglie contro marito e moglie, insomma è un modo molto bello di muoversi senza rovinarsi la vita facendo un gioco, che è uno degli aspetti che secondo me è più importante. Di solito lo sport, se viene vissuto come un impegno faticoso, noioso, eccetera, si fa fatica. Se è un gioco è molto più facile che le persone continuino anche in età avanzata. Naturalmente con tutte le precauzioni. Certo, adesso parleremo delle qualità fisiche che bisogna appunto avere. Faremo una carta di identità del tennis per capire se, immaginando così di intraprendere un'attività sportiva, questa è quella a cui stiamo pensando. Ma quello che mi ha colpito molto spesso guardando questi tornei in televisione, dottore Spizzi, è che qualche volta sono veramente nella durata estenuanti. Ci sono appunto questi match che durano ore e ore, spesso e volentieri sotto il sole, quindi direi che l'atleta deve avere anche delle caratteristiche di resistenza particolari a prescindere dalle qualità, il tono muscolare, diciamo la vocazione ad uno sport come questo. Quindi ci mettiamo una caratteristica in più? Assolutamente, questi sono super atleti, cioè Djokovic è bello da vedere nudo anche perché è molto bello, punto, cioè perché è muscoloso, perché c'è un fisico notevole, Nadal ha fatto impazzire tutte le ragazze del mondo, Federer anche naturalmente, no? Sono degli atleti incredibili perché resistere in uno sport che è tipicamente uno sport misto, cosa si intende uno sport misto? Che ci sono lunghe pause quando sono seduti alla sedia, intervallate da attività estremamente intense, uno scambio che magari dura un minuto, che è tantissimo nel tennis, e che continua quindi a mandare in accelerazione strenua il cuore e rallentare continuamente. Quindi è uno sport con caratteristiche miste che prevede una resistenza indefinita, nel senso che una partita può durare un'ora oppure cinque. Quindi veda che differenza c'è, si immagina che differenza ci può essere nella preparazione di queste persone, che devono essere pronti a 5 ore addirittura. Infatti, magari di partita. Quindi diciamo che l'allenamento, esatto, l'allenamento del tennista non significa che appunto l'atleta in questione si allena solamente sul suo campo da gioco, ma fa anche no, questi dell'altro. Passano molte ore, molte ore in palestra, sono atleti veri e propri. Faccio un esempio di New York, se c'era un famoso atleta spagnolo che finita la partita tornava in hotel in bici per allenarsi con la bici. Ah, ecco, certo. Sì. Quindi sono veramente Ferrer, sono veramente dei grandi atleti. Ecco, allora, però quali noi sono? Non possiamo paragonarci a questi qui, è sempre il solito errore. Possiamo farle in maniera più modesta. Paragonarsi le Williams direi che è improbabile, insomma, esatto. Sono loro che sono fuori allora, categoria. Diciamo. Le dia due dritte alla Rosciani, dottor Respizzi, che sì. Allora io non sto meditando di cominciare a giocare a tennis, ma qualora domani mattina mi svegliassi con questo pensiero, esatto, immaginando di farlo in autunno, ovviamente, sì, in condizioni meteorologiche più favorevoli, da dove devo cominciare? Facciamo anche una carta d'identità proprio di questa disciplina sportiva per attirare un po' più magari di potenziali atleti in Italia. Allora, una cosa molto, molto importante è iniziare con un maestro, questo è indispensabile, è uno sport molto tecnico. Giocare senza avere un maestro che ti imposta vuol dire sprecare un sacco di energia e non divertirti per niente. Per cui il primo consiglio che io do, sei una persona normale, sei una persona che fa un'attività magari sedentaria, trovati un maestro. Questo maestro imposta intanto la tecnica di base che appunto consente di non avere dispersioni di energia. A quel punto, quali sono le caratteristiche necessarie, visto il discorso che abbiamo fatto prima dello sport misto? Bisogna avere delle buone caratteristiche di scatto improvviso su brevi distanze e una buona capacità di recupero quando ci sono i momenti di pausa. Quindi significa che dovrò impostare un allenamento di base, quello che si chiama di base, che vale per tutti gli sport, in cui ci saranno delle buone caratteristiche di tipo aerobico, cioè il fiato, ma contemporaneamente anche delle caratteristiche di scatto improvviso, di velocità. Per cui se una persona sa che è molto lenta nei movimenti, che fa più fatica di altri, difficilmente potrà avvicinarsi al tennis, mm-hmm, perché non la prende mai, certo, non la raggiunge mai. Quindi mi raccomando, scegliamo il maestro giusto, perché ci può anche, esatto, ci può anche dare una dritta per così indirizzarci e soprattutto per farci capire se è il caso di insistere, magari, o se questa è anche la disciplina sportiva che non fa per noi. Bisogna questo avere anche vale per tutti gli sport, certo, tecnici, perché sono talmente legati all'utilizzo di un attrezzo o di qualunque altra cosa, che se non capisco bene come devo utilizzare quell'attrezzo lì faccio dei disastri. Tant'è che uno degli errori più comuni dei principianti, ecco, è di comprare la racchetta di Federer sbagliata. Benissimo. Quindi quella di Federer, capace solo lui di usarla, quella di Federer. Esatto, quella magica. Esatto. Dottor Respizzi, allora dalla racchetta ripartiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, ma faremo anche un focus sulla, come dire, sul terreno su cui giocare, perché anche il manto naturalmente su cui giochiamo è fondamentale, anche lì chiaramente non è che tutti possiamo permetterci Wimbledon, ma anche la scelta magari del campo da gioco su cui cimentarci può essere strategica per capire se possiamo continuare o meno su questa pratica sportiva. Tra pochissimo. Cuore e denari. Sergio da San Giovanni in Persiceto ci scrive: stasera solo tennis, quando c'è il re in campo il mondo si ferma, forza Roger, un esempio di serietà dentro e fuori dal campo, un grande. Beh sì, anche se poi questi campioni, anche quelli del tennis, qualche volta qualche piccolo inciampino lo fanno, c'è questa accusa pesante sulla Sharapova che, di cui si parla tanto in questi giorni, insomma, ma questa non è la puntata giusta per commentare queste vicende. Noi oggi parliamo di tennis come disciplina sportiva fa più o meno per noi. Il primo suggerimento per chi inizia da zero che ci ha dato il dottor Respizzi è quello intanto di scegliere un buon maestro che ci indirizza subito alla tecnica giusta con cui cimentare il nostro corpo e poi naturalmente la scelta della racchetta giusta. Beh, il maestro potrà dirci molto anche a questo proposito. Come facciamo a trovare la racchetta con la quale fidanzarci per l'eternità, dottor Respizzi? L'attrezzatura. Questo appunto è molto difficile, anche molto soggettivo, legato appunto alla migliaia di proposte che ci sono della tensione delle corde piuttosto che le impugnature eccetera. Quindi ci sono delle regole di base che proprio il maestro è in grado di vedere. Dopo averti fatto fare 4 scambi, di solito loro hanno più racchette e ti fanno provare un po' di cose, capiscono qual è la cosa più adatta. Ma nel caso del principiante l'importante è prendere una racchetta semplice, con le corde non così tanto tese, ma che consenta un divertimento. L'emulazione del grande campione è appunto l'errore più grosso, ma questo vale anche per lo sci, per chi compra gli sci dei grandi campioni, infatti, piuttosto che no, le biciclette che costano 10.000 euro e cose del genere. Diamoci una regolata, insomma, diamoci una calmata. Un bravo maestro ti misura la mano, vede qual è la dimensione del manico giusto per te, ti fa fare 4 scambi e comincia a capire cos'è la cosa più adatta. E dopo 3 o 4 lezioni, e ti ha fatto usare magari le sue racchette, ti dice: guarda, questa qui ti consiglio questo tipo di racchetta con questo tipo di corde e via. Quindi i tecnici servono a quello, che sono proprio bravi nell'evitare che la persona si faccia dei danni. Quindi io direi: fai da te, proprio è inutile farlo, insomma, si rischia di buttare via dei soldi, certo, per niente. Stessa cosa vale anche per le scarpe. Esatto, sa cosa stavo pensando, dottor Respizzi? Che sì, quando noi parliamo delle scarpe da ginnastica, per antonomasia le si chiama sempre le scarpe da tennis. Per forza, perché Iannacci docet. Infatti. Lei non è milanese, Deborah, ma Iannacci. No, io sono marchigiana, infatti, appunto, e quindi non avevo dato l'adeguata importanza. Nella cultura milanese Iannacci e portava scarpe tennis, ragazzi, questo è cultura di base, Era un po' in arretrato su questo. E che caratteristiche ha la scarpa giusta per l'atleta del tennis? Ecco, anche in questo caso dipende dove gioca. Abbiamo accennato prima, al dipende manto, dove vai a giocare, manto, evidentemente. Esatto. Quindi un conto è se passeggi sui regali prati di Wimbledon, che poi di fatto diventano della terra alla fin fine. Ma in Italia campi in erba sono talmente rari che è quasi impossibile. Che cosa succede mediamente in Italia? Che giochi d'estate sulla terra, che è la cosa più semplice, oppure su del sintetico. Ecco, sul sintetico c'è da dire molto, perché negli anni sono molto evoluti questi terreni, ce ne sono alcuni più moderni che sono molto meglio, sono molto meno impattanti, altri che sono praticamente del cemento. Quindi giocare sul cemento armato è molto impattante per le nostre articolazioni se non siamo preparati. Quindi io per un principiante consiglierei di giocare sulla terra. Questo lo dice anche di solito, lo propongono anche i maestri naturalmente, uh-huh, appena possibile, perché la terra ti consente più scivolamento, ammortizza di più, è meno vincolante la scarpa e quindi la scarpa sarà consigliata a seconda del terreno su cui si va a giocare, insomma. Andiamo una adesso normale, basta, esatto, senza nulla, niente di strano, niente di particolarmente sofisticato, no, insomma, niente tacchetti, no, niente di particolarmente. No, no. Allora, adesso ovviamente vorrei aprire il capitolo per gli ultimi minuti di tempo che ci rimangono, infortuni, il gomito del tennista, le tendinite varie. C'è un ascoltatore, Tommaso da Vicenza, che ci racconta la sua esperienza personale, dice: ho giocato a calcio una vita, gioco a tennis da 3 anni e giocherei tutti i giorni, quindi diventa veramente una disciplina che assorbe completamente e che appassiona anche a questo punto. Andiamo invece a Roberto da Modena, che ho causa inattività e ripresa, ho problemi di tendinite al gomito, come posso risolverlo? È diffuso? Qual è l'infortunio più diffuso, dottore Spizzi, legato alla pratica del tennis? Allora, dobbiamo però essere precisi nella terminologia. Un conto sono gli infortuni, un conto sono le patologie da sovraccarico. Ah, ecco. E il gomito del tennista tipicamente è una patologia da sovraccarico, non è un vero e proprio infortunio. Specifico questa non fatto per pedanteria, bene. Ma perché sennò l'assicurazione non ti rimborsa neanche le cure, tanto per essere precisi, visto che lei si occupa di queste robe. Se uno ha una polizza infortuni, il gomito del tennista non viene rimborsato. Perché è qualcosa di una patologia, ecco. È una malattia, non è un infortunio. Presente che ci sono queste classificazioni tra polizze infortuni e polizze malattie. Giustamente. Quindi le tendiniti vanno dentro di lì, non sono infortuni, sono qualcosa di sovraccarico che uno fa per molto tempo. Per dire, il gomito del tennista è una patologia tipica anche dell'elettricista, banalmente, è molto meno, fa molto meno scena. Ma però che caratteristiche ha questo benedetto gomito che ha questa denominazione che si è guadagnato un nome per muscoli, sé? I muscoli che si inseriscono sull'epicondilo, appunto, che è la parte esterna del gomito dove si sente il dolore, dove c'è il male, sono dei muscoli che servono a fare appunto questi movimenti torsionali, ad esempio per avvitare qualunque cosa. Nel tennis vengono molto utilizzati. Se la persona sbaglia lo strumento, ad esempio ha le corde troppo tirate, oppure non è così capace tecnicamente di colpire in maniera corretta la pallina, ci sono delle tensioni molto violente che partono dal manico della racchetta e che risalgono fino a lì. Questi muscoli sono quindi sollecitati in maniera anomala e il tendine che mette in connessione i muscoli con l'osso, con il gomito, va in crisi, va in sofferenza, va in sovraccarico e quindi perde le sue caratteristiche idonee alla funzione che ha il tendine, che è quello di trasmettere della forza da un muscolo a un osso. A quel punto il tendine si ammala, è una cosa progressiva, questo tendine non ha più queste caratteristiche e non è un'infiammazione acuta come avviene quando abbiamo il raffreddore, non c'è una tendinite, è più una tendinosi, come la chiamiamo i medici, c'è un'infiammazione cronica, una situazione cronica, una malattia cronica del tendine. È per questo che non è un infortunio, anche da questo punto di vista. E quindi qui abbiamo chiarito appunto il gomito del tennista. Sì. L'infortunio invece... L'infortunio più comune è la distorsione di caviglia. Perché è una cosa molto comune, ci si muove lateralmente nel tennis e molto quindi, insomma, facilmente. Il trauma è dietro l'angolo in genere. Esatto, il trauma è dietro l'angolo, soprattutto se sono su un terreno che è molto vincolante. Se si immagina un terreno sintetico, magari molto duro, in cui la scarpa fa presa, ci si vincola, si storta la caviglia. È la famosa storta, come si dice volgarmente, che è poi la distorsione della tibiotarsica, come la chiamiamo noi dottori. Rischi per le ginocchia invece, dottore Spizzi? Ginocchio molto meno dal punto di vista infortuni, di più dal punto di vista invece anche lì delle tendiniti, in particolare della tendine che sta tra la rotula e la tibia, cioè del tendine rotuleo. Quello può essere una causa, però non dobbiamo dimenticare che a tennis si gioca con le braccia. Infatti sarei andata adesso, per esempio, dopo il gomito, al polso, non lo so, anche lì. Al polso poco, la spalla. La spalla, ecco. È la cosa più coinvolta in assoluto. La spalla è molto sollecitata perché nel tennis continuiamo a fare dei movimenti molto sopra l'orizzontale, quindi a braccio esteso verso l'alto, soprattutto quando si schiaccia o si fa servizio, e questa è una cosa che alla lunga può provocare una sofferenza ancora una volta dei tendini, della cuffia, dei rotatori. E quindi è una cosa da tenere presente, molto molto importante, soprattutto nelle persone anziane, perché nelle persone più avanti nell'età la cuffia dei rotatori non è mai così brillante, è quasi come dire che è invecchiata anche la cuffia dei rotatori, quindi ha dei processi degenerativi dentro nei tendini, e quindi giocarci tanto vuol dire anche mettere un po' in crisi questa struttura. Certo. Anche qui si parla di malattia, non di infortunio. Benissimo, e quindi attenzione alle polizze assicurative che sottoscrivete per proteggervi da queste evenienze. Gli strappi muscolari più diffusi legati al tennis, dottore Spizzi? Niente, se non a volte può succedere un colpo della strega, quindi non è uno strappo ma una contrattura violenta dei muscoli lombari. Allora c'è un ascoltatore che chiede: ok, dopo che avete raccontato tutto questo, la donna di denari può chiedere quanto prende un maestro mediocre all'ora? Ecco, non credo che il dottore Spizzi sia pronto su questo, ma ci documenteremo probabilmente se vi rivolgete ad un circolo sportivo. Sì. Dipende molto dal posto di lusso dove si va a fare queste robe. Infatti. Allora io penso che sia tra i 50 e i 100 euro all'ora che chiede un maestro, singolo. Quanto, dottore Spizzi? Tra i 50 e i 100 euro all'ora. Uno serio, e quindi neanche neanche, ecco. No, mi avete messo gli annacci? Eccoli qua. Qua io, la regia è pronta, è subito che infierisce sulle mie lacune, sulle mie lacune culturali. Dopo Manzoni c'era gli annacci. Certamente. Lei c'ha Leopardi e ognuno c'è i suoi. Ognuno c'è i problemi che si merita. Dottore Spizzi, per tutti coloro che invece hanno qualche problema di primo approccio con il tennis, oggi gliel'abbiamo risolti anche questi. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon Wimbledon a tutti gli ascoltatori.